America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Beh, ieri abbiamo avuto una prima notte delle stelle, i Golden Globe, i premi per il cinema, la televisione, della stampa estera, della critica estera di Los Angeles. Beh, cominciamo dal primo successo, un successo italiano. Thank you to Italy, that's a crazy country but beautiful. Thank you very much. Paolo Sorrentino, l'avete sentito, ha vinto ieri notte a Los Angeles il premio per il miglior film straniero. Devo dire, è stato acclamato dalla critica americana. Il New York Times ha scritto cose bellissime di questo film. Sorrentino, ritirando il premio, ha ringraziato l'Associazione dei Critici Stranieri di Los Angeles, che ha lanciato i Golden Globe 71 anni fa, e ha fatto una dichiarazione laconica, verissima, l'avete sentita poco fa. Italy is a crazy country, but it is beautiful. L'Italia è un paese pazzo, ma bellissimo. Beh, vedremo se ci sarà un bis con gli Oscar ai primi di marzo. Ma veniamo alla serata. We are hosting the Golden Globes for our second time. Thank you. Tina Fey e Amy Poehler sono state le conduttrici della serata. Ma dunque, intanto parentesi, Amy Poehler ha anche vinto il Golden Globe come migliore attrice per il sitcom televisivo Parks and Recreation. E, come ho detto, i Golden Globe non si occupano solo di cinema, ma anche di televisione, e inoltre dividono i film in due categorie: drammatici e commedie e musicali. E, insomma, per me non è partita bene questa serata, perché sia Tina Fey che Amy Poehler facevano uno spirito, devo dire, non efficace, battute così un po' volgari, ma senza che facessero davvero ridere. Mancava l'ironia, mancava l'intelligenza, che poi è la forza di alcuni di questi spettacoli americani. And the Golden Globe goes to Michael Douglas, Behind the Candelabra. Michael Douglas, cominciamo con la televisione, ha vinto il premio per miglior attore con Behind the Candelabra per film televisivi, ed è un film sul cantante Liberace. Devo dire, un premio importante, e mi fa molto piacere che abbia vinto Douglas, che è un uomo di grande calore umano e reduce da un'operazione per un cancro alla gola, reduce ormai da qualche tempo. E da un momento difficile sta passando, dicono le cronache mondane, un momento difficile con la moglie Catherine Zeta-Jones, a cui ha comunque dedicato il Golden Globe. Ma in materia televisiva la parte del leone l'ha fatta Breaking Bad, in italiano Relazioni Collaterali, una serie... È una serie che ha lasciato veramente il segno in America, ecco, è stata trasmessa anche in Italia, è andata in onda in prima visione sul canale satellitare AXN dal novembre 2008 al novembre 2013, dal 2010 è in chiaro su Rai 4, ma non ha avuto, credo, in Italia lo stesso impatto fortissimo sull'immaginazione degli americani. È una storia molto drammatica, la storia di un professore di chimica che a un certo punto si trova in difficoltà, poi la moglie è incinta, lui scopre di avere un cancro, viene preso in giro dai parenti perché come insegnante non guadagna molto, e decide di sfruttare queste sue capacità, queste sue abilità di chimico per produrre una droga purissima, una metanfetamina, che poi distribuisce, e si trova coinvolto naturalmente in situazioni molto drammatiche, soprattutto perché il cognato Hank lavora proprio con la Drug Enforcement Administration, quindi con l'agenzia antidroga. Ecco, premio meritato per il serial, premio meritato per Bryan Cranston, che ha vinto il Golden Globe come migliore attore. And the Golden Globe goes to Kate Blanchett, who just... Golden Globe per miglior attrice protagonista per film drammatici è nata Kate Blanchett, bravissima in Blue Jasmine di Woody Allen. Allen ha anche ricevuto il premio alla carriera, non si è presentato a Los Angeles, ma il Golden Globe l'ha ritirato per lui Diane Keaton, protagonista di molti suoi film, ed è stato un intervento piuttosto commovente, perché la Keaton ha detto: conosco Woody da 45 anni, sono piena d'affetto, d'amore per lui, per quello che ha fatto, per essere sempre stato lui a ideare, scrivere, girare, dirigere, recitare nei suoi film. Leonardo DiCaprio ha avuto il Golden Globe per miglior attore protagonista nella commedia The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese. First and foremost, I have to thank Mr. Martin Scorsese. Avete sentito Leo DiCaprio che ritira il premio e che così dedica questo suo successo al suo mentore, proprio Martin Scorsese, anche lui presente in sala, il regista di questo film. È una commedia, anche DiCaprio dice, beh, è la prima volta che prendo un premio come miglior attore per una commedia, ma non è tanto una commedia, è la storia di una truffa a Wall Street, ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione. You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food. Empty, just like your deals. Empty, empty. Beh, due film hanno fatto la parte del leone. Il primo è Dallas Buyers Club, che si è collocato secondo posto. Matthew McConaughey, miglior attore per film drammatico. Jared Leto, miglior attore non protagonista. La storia di un eterosessuale che si trova colpito dall'AIDS, proprio all'inizio dall'AIDS, e poi con fatica riesce a non morire grazie all'aiuto di medicine alternative entro 30 giorni, come gli aveva detto un dottore, ma vive fino al 1992. La malattia lo aveva colpito in Texas e texano Ron Woodruff, il protagonista, nel 1986. E quello che vi ho fatto ascoltare poco fa è un estratto da American Hustle, miglior film, miglior attrice protagonista con Amy Adams, miglior attrice non protagonista con Jennifer Lawrence, tutte e due bravissime, dunque super meritato. Però qui una cosa importante, il punto di forza secondo me del film, oltre all'originalità, alla bellezza, alla regia, è quello di mettere il dito nella piaga della volgarità, della decadenza e della corruzione della politica. Anche se il film si passa fra il 74 e il 78 e si passa in New Jersey, potrebbe essere stato girato oggi, soprattutto dopo questo scandalo meschino, inutilmente vendicativo, orchestrato da una buona parte della squadra del governatore Chris Christie. Lo avrete letto sui giornali, avevano deciso e ordinato di chiudere due corsie chiave del George Washington Bridge, e servivano da sfogo per Fort Lee, che è una cittadina subito al di fuori del ponte, per punire il sindaco di Fort Lee, un democratico che non aveva appoggiato la candidatura di Christie al governatorato del paese. Ecco, il film American Hustle, diretto da David Russell, racconta di questa operazione Abscam. Sono tutti personaggi di quarta categoria, ma che si trovano coinvolti in giri loschi e più grandi di loro. Andatelo a vedere, merita, è uno spaccato del nostro tempo ed è un avvertimento, direi, su quelli che sono i vizi negativi della politica, i vizi negativi della volgarità nella quale ogni tanto ci troviamo purtroppo a vivere nel nostro tempo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Golden Globe per la miglior canzone originale è andata agli U2 per il film di Mandela. Dunque, degli U2, Ordinary Love, dedicata a Mandela. I can't fight you anymore. See you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall. È tutto, Simone, ti restituisco la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.